Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Con questo mese di maggio entriamo nella giungla delle tasse, mese in cui iniziano a arrivare un po' di scadenze. Cerchiamo di capirci qualcosa, anche se in questi primi giorni del mese molte cose ancora non sono chiare. Non sono chiare, tanto che un comune, addirittura quello di Mogliano Veneto, si è rivolto all'Associazione Difesa Consumatori a Mestre per chiedere aiuto. Ben trovato il presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, succede anche questo, che un ente pubblico chieda aiuto a un'associazione di consumatori. Come hai detto, si tratta del comune di Mogliano, che è interessato da quelle che sono state un po' le osservazioni, le ingiustizie anche, chiamiamole così, di cui una certa categoria di commercianti in questo caso, e parliamo di pizzeria e taglio nello specifico, come anche delle fiorerie, si troveranno a dover pagare per effetto della nuova TARES che andrà in vigore qua quest'anno, di cui già in questo mese si inizierà a pagare, di cui sostanzialmente il comune voleva essere volta l'Adico per questo, ribadire come una voce in capitolo, ma è una tassa che si trova a dover applicare per effetto di normative e provvedimenti governativi che sostanzialmente si trova a subire e di cui i commercianti faticano a digerire, e quindi possiamo capire tutto il disagio che l'amministrazione ha avuto di fronte a questa, chiamiamola, sommossa. Fatto salvo il principio che per i rifiuti si paghi in proporzione e in misura di quanto uno produce, cioè se uno divide bene, fa bene la raccolta differenziata, ciò che è indifferenziato, il cosiddetto secco, dovrebbe essere abbastanza limitato, tanto che soprattutto in Veneto le percentuali di raccolta differenziata sono molto alte e significative. A Fusina, ad esempio, comune di Venezia, è stato chiuso qualche settimana fa l'inceneritore proprio perché non ce n'è più bisogno, non c'è più tanta immondizia da bruciare. Ma è proprio su questi rifiuti che questi commercianti, negozianti, appunto hai citato pizzeria al taglio e non solo, proprio su questo si centra il calcolo che rischia di essere sproporzionato. Ma sì, perché parlando di attività commerciali ho scoperto anch'io con grande sgomento, perché un conto è leggere i provvedimenti, un conto è comprenderne poi in ambito applicativo come alla fine questi provvedimenti non solamente vanno a colpire le famiglie, di cui ormai è noto, perché ormai chiunque ha una casa o vive in affitto sostanzialmente si rende conto ormai in che giungla di tasse si trova a dover pagare, se tra TARES, IMU, mini IMU, le IRPEF addizionali comunali, addizionali regionali e quant'altro, e bollette a parte. Ma nel caso specifico, per esempio, delle pizzerie e taglio, è scoperto come queste persone si trovano a dover pagare circa il 60% in più rispetto a quello che pagavano prima. Perché? Perché le solite menti che ci stanno a Roma non tengono conto innanzitutto della territorialità con cui, come hai detto te, nel Veneto per esempio dobbiamo dire la differenziata funziona rispetto ad altre regioni, ma soprattutto si calcolano come per esempio una pizzeria e taglio debba consumare un tot di chili di spazzatura per metro quadro rispetto a prima, quando in realtà lo dicono noi sostanzialmente parlando di secco non produciamo secco, perché smerciamo sostanzialmente solamente prodotti alimentari, e quindi si sono trovati che rispetto a quello che è il dato con cui il governo ha calcolato che lo dovranno pagare, sostanzialmente si trovano a un valore abbondantemente inferiore rispetto a quello preventivato, e qua gridano la loro rabbia, perché certamente hanno tutte le buone ragioni in questo caso. Ecco, stiamo parlando solamente della componente sui rifiuti, poi sappiamo che c'è la componente sui servizi indivisibili, anche qui non sono ancora chiari i criteri, e poi l'IMU che è rimasta per le seconde case, cioè tutte le abitazioni che non sono abitazioni principali, e per tutte le attività commerciali. Questa è solo una voce, il comune di Mogliano, ma è un esempio, ma tutti gli altri 600 comuni del Veneto e 8.000 2000 comuni italiani probabilmente potrebbero chiedere aiuto. Credo che lo stiano chiedendo, perché non mi risulta che qualcuno abbia ancora fissato esattamente i criteri per capire quanto ciascuno deve pagare. Allora, abbiamo capito tutti che sostanzialmente si tratta di due polai di porcherie, perché oggi c'è solo la fantasia di qualcuno a dover trovare il modo migliore di far pagare cosa? La tassa sulla prima casa, che prima non si è fatta pagare l'anno scorso, trovando magari una voce nuova e giustificandone poi la destinazione rispetto a prima, mentre per chi si trova ad abitare in una seconda casa, per esempio pensiamo incomodato perché magari il papà ha lasciato una casa al figlio, oppure chi ha una piccola attività commerciale, come per esempio le pizzerie d'Italia, ma le fiorerie che vivono su spazi di 20-30 metri quadri, si trovano a pagare cifre spropositate. E certamente il fatto che non sia chiaro, e io ammetto, perché oggi non si capisce ancora se si chiamerà IMU sulla seconda casa, TAR, IUC, si parlava di TRISE, si parla di TARES adesso, quindi siamo arrivati alla follia pura. È chiaro che non c'è interesse a far capire niente, perché adesso dobbiamo dirci che l'unico interesse che gli frega qualcosa i politici sono solo gli europei, che quelli saranno qua il 25 maggio, quindi un argomento che difficilmente avremo la possibilità di approfondire come si dovrebbe. Come avete risposto alla fine al comune di Mogliano che vi ha chiesto aiuto? Sostanzialmente noi ci siamo fatti un po' da ambasciatori, ma abbiamo anche lanciato un appello a chi, come il comune di Mogliano e alle associazioni di categoria che rappresentano un po' anche i commercianti e noi e le famiglie, e quindi pensiamo anche alle altre associazioni come dei consumatori, di unire un po' le nostre forze e portare avanti l'unica voce, perché oggi questo argomento riteniamo che sia giusto che tutti lo dobbiamo affrontare in maniera seria, ma con la consapevolezza di creare una giustizia sociale che sostanzialmente a nostro avviso ancora oggi non c'è. Allora, appena ci sarà chiarezza normativa da parte del governo prima e poi di conseguenza i comuni si adegueranno, torneremo sul tema che chiaramente tocca a tutti, sperando che nessun altro venga a rivolgersi all'Adico, un ente pubblico che si rivolge a un'associazione dei consumatori, davvero siamo quasi arrivati al limite, ma appena ci saranno notizie certe faremo chiarezza anche noi. Tra un paio di giorni, tanto per restare in tema, invece parleremo di bollo auto, che è un'altra questione che torna d'attualità, perché ci sono dei pregressi di qualche anno fa che ancora non sono risolti. Intanto grazie al presidente dell'Adico Carlo Garofolini, buon proseguimento. Grazie a te Mirko, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.